Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con il professor Giovanni Iudica, giurista insigne e professore di diritto civile all'Università Bocconi. Ricordo anche noto per i suoi libri di musica, Orfeo Barocco, pubblicato da Sellerio, fu dedicato a Stradella, Il Principe dei Musici, sempre pubblicato da Sellerio, a Gesualdo da Venosa. È arrivato tra l'altro alla terza edizione. Ricordo che il professor Iudica ha organizzato il Festival Gesualdo nel 2013 e poi anche altri suoi libri, sempre di argomento musicale, come Il caso Gesualdo, Chopin a Palma di Maiorca, Mahler sul lettino di Freud, questi altri pubblicati dalla Vita Felice. E ricordo anche che, tra l'altro, in questi ultimi giorni, in queste settimane, è uscita la sua Torre di Babele, esattamente il libro ha come titolo La casa del fondamento del cielo e della terra, ed è un libro con tante illustrazioni, con alcune sue considerazioni sulla Torre di Babele. Ricordo anche che il professor Iudica è stato definito da Severino, Emanuele Severino, che gli è amico, un importante giurista, ma con i libri che ha pubblicato potrebbe tranquillamente occupare una cattedra di musica. Adesso chiederemo proprio al professor Iudica se preferisce continuare a fare il giurista o se ora vuol saltare in una cattedra di musica. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Ecco, ma non so, la presentazione, perché ci sono talmente tante cose da dire su di lei, anche la Torre di Babele, proprio adesso che i fondamentalisti stanno distruggendo quelle parti, lei è arrivato in tempo, non aveva delle informative, assolutamente. No, assolutamente no, però è per me una grande sofferenza vedere distrutti questi monumenti insigni che recano testimonianza di un passato davvero glorioso dell'umanità, distrutti con le ruspe. Sì, è una cosa allucinante. È proprio un dolore, una cosa allucinante. Sì. Ecco, professor Iudica, lei rimane nella cattedra di diritto, rimane a fare il giurista, anche se musicologo pare... Io resto a fare il giurista, resterò sempre, morirò con la mia medaglia da giurista, però mi piace avere degli hobby, tra questi c'è... occupa un posto importante la musica. Certo. Senta, professore, lei è venuto a trovarci questa sera, almeno trovarci, è in collegamento con noi, poi diciamo che è ospite di questa trasmissione, per un avvenimento che si celebrerà, se ben ricordo, sabato prossimo, il 21. Sì. E cos'è sabato prossimo? Si tratta di questo. Il 21 marzo è la giornata europea della musica barocca. Direi sull'onda del successo che ha avuto sia di critica che di pubblico il Festival Gesualdo, è nata, abbiamo dato vita a una associazione chiamata Accademia di Musica Antica di Milano, il cui acronimo è AMAMI, proprio per affrontare la valorizzazione del patrimonio musicale barocco, soprattutto italiano. E per valorizzazione si intende da un lato la riscoperta di partiture dell'epoca, partiture trascurate, poco note, chiuse in qualche angolo di scaffale delle biblioteche, poi creare delle edizioni moderne di queste partiture, la loro pubblicazione, la loro registrazione audio e possibilmente una loro esecuzione. Ecco, il 21 marzo si inaugura la vita di questa nuova neonata Accademia di Musica Antica con un concerto dedicato a Giovanni Battista Bassani. È stato un grande musicista, però francamente non si conosce, poco noto, il grande pubblico lo ignora, e quindi ecco che è compito di questa accademia portarlo alla conoscenza del pubblico milanese, che durante il Festival Gesualdo ha dato prova di avere sete di conoscenza, di essere un pubblico vigile, intelligente, assetato di conoscenza musicale. Quando io ricordo al festival Gesualdo è noto per aver ammazzato la moglie. E purtroppo però, c'è anche questo fatto nella sua vita. E si sa che insomma questi fatti di cronaca appassionano, ma in realtà insomma è un musicista difficile, è un musicista certo. complesso, è un musicista profondo. Beh, insomma, professore, la gente arrivava a centinaia per sì, ascoltare sì, Gesualdo. Ma proprio Gesualdo ha bisogno. Milano è una città che si presta, ecco. Professore, Giovanni Battista Bassani, che tra l'altro è nato o nel 1647 o nel 1650, non lo sappiamo, ci non sono dei punti bene. Di domanda. Mm. Di certo morì a Bergamo il 10 ottobre 1716. Mm. Lei ci ha gentilmente inviato in anteprima due dischi della Tactus, che penso verranno presentati sabato prossimo. Non sono ancora tutti a fogli, tutti così, insomma, i libretti, non c'è neanche il cofanetto, cioè abbiamo no. Tribolato ancora, un po' studio. Ci sarà il cofanetto il 21. Sì, che costituire una grande attrazione per Bach. Buxtehude prima e Bach saccheggiò moltissimo della musica barocca italiana. Ci sono per esempio dei passaggi di Stradella che sono delle premonizioni bacchiane, si può dire, e lo stesso vale per Bassani, che è meno studiato, meno noto, e che questa accademia cercherà insomma di valorizzarlo e di metterlo in luce insieme ad altri. Anche perché Stradella ebbe una vita anche lì un po' sciagurata, no? E quindi la cronaca prevale sulla musica, no? La cronaca prevale sulla musica nel caso di Stradella, ma invece qui nella vita di Giovanni Bassani no, è una vita più scialba, più piatta, anche se si è mosso parecchio. Ma poi c'è anche Giacomo Antonio Perti, Giovanni Paolo Colonna, tutti i musici, Giovanni Legrenzi, che insomma ha un'altra statura, però insomma tutti musici che meritano attenzione di essere un po' riscoperti. E tra gli obiettivi che questa accademia si ripropone c'è anche quello di dare borse di studio ai giovani per agevolarli nella ricerca. C'è quello di organizzare convegni, lezioni concerto, conferenze, studi monografici musicologici, e uscirà proprio tra poco, direi a giorni, il primo volume dei quaderni di dell'Accademia, che raccoglierà tutti gli atti del Festival Gesualdo. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con il professor Giovanni Iudica. Ricordo che è un insigne giurista, oltre che professore di diritto civile in Bocconi, ma è un patito, ha una passione particolare per la musica, tanto più che ricordavo Emanuele Severino, suo amico, mi ha confidato una volta: forse Iudica potrebbe insegnare musica perché ha tutti gli elementi per vincere una cattedra di storia della musica o di qualcosa del genere. Non a caso è autore di libri su Stradella, su Gesualdo da Venosa, anzi ha anche organizzato il Festival Gesualdo nel 2013, e poi presso La Vita Felice ha pubblicato una serie di testi di grande leggibilità dedicati appunto al caso Gesualdo, a Chopin, a Palma di Maiorca, che contiene diverse storie, e Mahler sul lettino di Freud, che ne contiene altre, sempre dedicati alla musica. Sovente fa i conti in tasca Mozart, altre volte guarda quello che succede magari quando il povero Chopin deve scappare da questa vacanza che fa con la Sand. Ricordo anche che in questi giorni, proprio per una pura coincidenza, ha pubblicato un libro, La casa del fondamento del cielo e della terra, dedicato alla Torre di Babele, quasi un'altra, cioè una sua passione, che è quella proprio di raccogliere stampe della Torre di Babele, di andare a vedere mostre, confrontarle, eccetera, eccetera. E proprio quando l'ISIS fa questi disastri che tutti vediamo nei telegiornali, il professor Judica esce con un libro proprio riguardante questo argomento. Diciamo che escludendo i collegamenti tra lei e l'ISIS, bisogna dire che è stata una bella coincidenza, professore. Posso assicurare che non ho alcun collegamento. Ma lo sappiamo, lo sappiamo. Anche questo è uscito dalla Vita Felice e anche questo ovviamente è un libro, tra l'altro questo molto illustrato, no? Perché ha tutte queste incisioni sulla Torre di Babele, era un tempio, no? Era un tempio. Sì, la Torre di Babele era un tempio dedicato a Marduk, che era la divinità principale, che tendeva a diventare la divinità unica. Si stava affermando una sorta di monoteismo anche presso gli assiro-babilonesi, e questo tempio non era stato creato per salire in cielo, ma per consentire al Dio che stava in cielo di scendere sulla terra, e quindi di consentire al Dio Marduk di venire tra gli uomini, assicurarli che il sole sarebbe dopo la notte di nuovo sorto in cielo, eccetera. Le stagioni, è vero, sarebbero seguite l'una all'altra. Quindi la pagina biblica invece rovescia questo aspetto, no? Esatto, immagina che la torre non sia mai giunta a conclusione, che non sia mai stata, non abbia raggiunto il tetto, diciamo così, e che l'ira divina abbia impedito, con la pluralità delle lingue, questa sanzione cattiva, impedito la sua definizione. Professore, su questo, ho una tesi. La tesi, no, la diciamo tranquillamente. Invita a leggere il suo libro pubblicato dalla Vita Felice, però la sua tesi in sintesi cos'è, professore? La mia tesi è questa, è che la Bibbia era il diario di alcune tribù che adoravano il loro Dio. Ogni tribù, gli ebrei, poi c'erano i filistei, poi c'erano i sadducei, ognuno aveva il suo stendardo, la sua bandiera, aveva il suo Dio. Gli ebrei, queste tribù di pastori, avevano Yahweh, ma questi pastori, i pastori yavisti, diciamo così, ebbero un'idea geniale, quella di fare un diario, tenere un diario, che noi chiamiamo la Bibbia. E se non che questo popolo di Yavisti ebbe una serie di sventure, disavventure terribili. Tra queste, oltre alla cattività in Egitto, ci fu anche la cattività a Babilonia. Furono cioè ingaggiati questi popolo come, diciamo, schiavi per costruire la Torre di Babele. E allora ecco che la pagina biblica io la vedo come una pagina di controinformazione. E cioè, potendo fare, maledirono questa torre e la condannarono a essere incompiuta, quando invece nella realtà fu compiuta. Poi sentiremo magari qualche ascoltatore che ha un'obiezione, sarebbe bello organizzare un dibattito. Noi siamo una trasmissione musicale e noi utilizziamo il professor Judica come musicologo, ma anche questa notizia sulla Torre di Babele, dati i fatti di cronaca di questi tempi, insomma, vale la pena approfittarne. Senta, professore, però voi sabato 21 farete appunto questo primo appuntamento per la musica barocca. Cos'è, un convegno? No. Il 21 marzo alle 20:30 presso la Sala delle Colonne del Museo della Scienza, anche con la collaborazione della Gioventù Musicale d'Italia, naturalmente. Di Milano, stiamo parlando di Milano. Sì. Del Museo della Scienza di Milano, ci sarà questo concerto di apertura e di inaugurazione, diciamo così, dell'Accademia di Musica Antica di Amami. E questo 21 marzo però 2000, e 15 è importante perché è la giornata europea della musica barocca, della musica antica, e quindi è una coincidenza felice, direi, e che abbiamo colto al volo. Abbiamo una collaborazione stretta con il musicale e con il Museo della Scienza, e infatti proprio il primo concerto sarà dato alla Sala delle Colonne alle 20:30. Certo. E sarà di Bassani, no? Sarà su Bassani. Sì, un concerto dedicato a opere di Bassani, il Vespro della Beata Vergine, gli armonici entusiasmi di Davide, dei salmi concertati a quattro voci con violini e ripieni. Diciamo un concerto tutto dedicato a questo musicista. Poi in seguito, a ottobre, ci saranno altre iniziative dedicate ad altri musici barocchi. Quindi la diffusione di questa musica chiaramente è anche la diffusione di un patrimonio sepolto, sì, nelle nostre biblioteche, chissà dove, insomma è musica silente che è rimasta silente per troppo tempo. Per troppo tempo. Naturalmente per dar vita a queste iniziative di studio, di ricerca e di valorizzazione di questo patrimonio e di coinvolgimento anche di giovani studiosi oltretutto, e ci vogliono dei soldi, dei quattrini, certo. Ci vogliono degli sponsor. Per ora noi abbiamo la Fondazione Alciato che finanzia questo avvio, diciamo così, di questa nostra accademia. Poi dovremo cercare altre fonti, altre fonti, altre risorse, perché l'impegno è massiccio, insomma, è complesso. E quindi la crisi poi non aiuta. La crisi non aiuta, e anche le fondazioni sono in difficoltà, perché le fondazioni poi vivono sui proventi e sulle rendite delle loro partecipazioni in banche, in fondi, eccetera, che purtroppo in questo momento sono tutte in crisi. Ma insomma, bisogna essere ottimisti, insomma, oltre certo, che realisti. Dicono che c'è la ripresa, aspettiamola appunto, magari con un po' di musica barocca, ecco. Questa sera siamo in collegamento con il professor Giovanni Iudica, ricordo un giurista insigne, professore di diritto civile alla Bocconi, ma anche autore di libri importanti per la storia della musica. Il suo Orfeo Barocco, dedicato a Stradella, pubblicato da Sellerio, ha indubbiamente fatto riscoprire questo musicista, e poi soprattutto Il Principe dei Musici, su Gesualdo da Venosa, giunto alla terza edizione, ha lanciato questo personaggio anche per il Festival Gesualdo del 2013 ed è stato un po' conosciuto anche dal grande pubblico. Poi il professor Iudica è autore di libri divulgativi sulla musica che riguardano, oltre il caso Gesualdo, anche Chopin a Palma di Maiorca, Mahler sul lettino di Freud e quest'altri, insieme a un libro sulla Torre di Babele intitolato La casa del fondamento del cielo e della terra, sono stati pubblicati dalla Vita Felice, che è una piccola editrice milanese raffinatissima che fa anche libri di poesia, fa, diciamo così, cura molto i classici e in particolare pubblica anche i libri di Giovanni Iudica, non quelli però giuridici, professore, perché c'è anche una sua diciamo così una sua produzione, sì, giuridica che sfugge, direi. Dunque no, la mia produzione giuridica ha altri editori, Giuffrè, eccetera, sì, sì, la UTET, sì. Direi che io ho pubblicato Giappichelli un po' con tutti i principali editori giuridici. Sia monografie, saggi, articoli, trattati. Sì, poi lei ha anche ovviamente degli interessi, è chiamato nell'ambito internazionale per dei consulti, per delle situazioni. So che lei ogni tanto è a Londra, è a Parigi, è a Berlino, insomma, ogni tanto si perdono le sue tracce, e quando io la chiamo al telefono per fare questa puntata, dipende dal suono del telefono, capisco grosso modo se è in Europa, in America o in Asia. No, ecco. Perché... Le dico perché ho partecipato alla commissione per la creazione di un codice civile europeo, e quindi un grande sogno, perché è assurdo che vi sia un mercato comune europeo e non vi siano delle regole comuni nel campo del diritto patrimoniale dell'Europa. Esiste, certo, un mercato comune, ma ogni Stato ha la sua bandiera e il suo codice, le sue regole, e questo è veramente direi incomprensibile. Però purtroppo questi sforzi, sebbene hanno comportato una fatica più che decennale, hanno portato a un risultato importantissimo delle pandette del XX secolo, però sono rimasti sulla carta, perché manca il Napoleone Bonaparte, il Bismarck, il legislatore, manca l'Europa, questa è la verità. Certo, e del resto manca anche nell'avere un esercito comune, una fiscalità comune. Una fiscalità comune, quindi non solo una disciplina comune del contratto, diciamo gli scambi tra stati sono quotidiani, però ognuno ha le sue regole. È una specie di disastro, anche perché chi va in Inghilterra paga il 33% di tasse e chi sta in Italia paga il 45% anche oltre. Sì, forse di poi, più. Poi con tutti questi balzelli che hanno inventato comuni, regioni, eccetera. Cioè non c'è occasione che si perda per mettere una tassa ai poveri contribuenti, e ovviamente il malcontento generale. Se qualche politico ci sta ascoltando, sappia che la situazione fiscale italiana è disastrosa. Ecco, lo ammettiamo così tranquillamente accanto alle note barocche. Ecco, che si lavora ormai sino a luglio inoltrato per pagare il fisco e poi per se stessi. Detto tra noi, poi se lo Stato funzionasse bene, o se non so, facesse tutti i servizi che promette, allora uno dice: beh, lavoro per una causa. In realtà tutto quello che viene dallo Stato molte volte è guardato con il naso arricciato. Ma guardi, proprio l'altro giorno un collega romano mi ha raccontato questo fatterello. Sono entrati dei ladri in casa sua al mare. Allora lui va dalla polizia e dice: ma allora, dice, sì, li conosciamo, sono quelli lì, però sa, non li abbiamo inseguiti perché pioveva, c'era brutto tempo, dice, stare lì. Questa è l'immagine che io ho ricevuto. Ecco, sì, sì, no? Uno dice: ma che cosa? Ecco, potremmo aggiungere altro, ovviamente. Esatto, insomma, esatto. Non, vabbè, ma lasciamo perdere, cerchiamo almeno di salvare un po' il nostro patrimonio. E lei che cosa ci può dire di Corelli? Io posso dire che Corelli era l'ultimo dei violini del complesso, diciamo così, di Alessandro Stradella. E Alessandro Stradella era un birbante, quello su cui ha scritto il Alessandro libro. Alessandro Stradella, oltre ad essere un birbante, era anche però un grande compositore e una punta di diamante del bel canto italiano. E tra i suoi violini, il più giovane era questo Corelli, che aveva appreso da Alessandro Stradella, dal suo maestro, i principi del concerto grosso. Quindi l'inventore del concerto grosso è Stradella. Corelli l'ha portato, diciamo, alle sue vette più alte, al suo trionfo. Però il seme viene da Stradella. Professor Judica, voi avete scelto il 21 marzo, ma c'è qualcosa di particolare il 21 marzo che vorrei lei dicesse proprio tranquillamente? È stato il REMA, il Réseau Européen de Musique Ancienne, a scegliere il 21 marzo come giornata europea della musica, perché il 21 marzo è il compleanno di Johann Sebastian Bach, e quindi una data importante per la musica antica, la musica barocca, quella che va, diciamo, dal 500 al 1750. Ecco, si tratta naturalmente di categorie cronologiche artificiali, ma insomma è quella che viene normalmente considerata la musica anziana. Una lettera di una signora che proprio diceva: lei ha bisogno ogni giorno di ascoltare un brano di Bach. È una cosa così è come una preghiera. Certo, come si fa a vivere senza Bach, bisognerebbe dire. Vabbè, professore, comunque tra una cosa e l'altra siamo giunti alla fine di questa puntata. Il tempo con lei vola. dalla Torre di Babele ai disservizi dello Stato italiano alla musica barocca, però abbiamo in qualche modo, insomma, quadrato il cerchio questa volta. Quadrato il cerchio, io la ringrazio tantissimo. No, ringraziamo noi lei e diamo appuntamento a coloro che lo vorranno al Museo della Scienza sabato prossimo alle 21, mi pare, o alle 20:30. No, alle 20:30 alla Sala delle Colonne. Alla Sala delle Colonne per il concerto che appunto renderà onore anche a Bassani. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie mille, buona serata. Buona serata anche a lei, buona serata a voi cari ascoltatori e io vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Giovanni Iudica.